Unirrem. Esto en este programa. Underoto. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Welcome. Dai, che iniziamo, che siamo in ritardo, rigorosamente in ritardo. No, vabbè, non più di tanto. Come va? Oggi credo che ogni scongiuro ammesso, dai, ammesso. Cioè, oggi sapete che giorno è, no? And now, your favorite DJ. Oggi è il venerdì 17 febbraio, fra l'altro. E allora, iniziamo anche oggi. Possiamo partire? E allora anche oggi vi regalerò poi nel corso del programma quelli che sono stati i grandi successi del passato. Qualcuno lo andremo a ripescare indietro nel tempo. Dischi che hanno fatto anche un po' la storia di Sanremo. Quindi se voi per esempio avete voglia di sentire qualche disco che ha vinto, che ha fatto un po' parte del Festival di Sanremo, visto che questa settimana non si parla d'altro che di Sanremo, fatemelo sapere come, facilissimo, o tramite un SMS al 335 56 37 251, o eventualmente tramite il nostro sito internet CRMP Radio, oppure ancora tramite il nostro profilo Facebook. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. Daddy Cool. Primo disco di oggi, un classico, un disco che siamo andati a ripescare indietro nel tempo con i Bonnie M. Parte così una nuova puntata, ultima fra l'altro della settimana di On The Road, con Robin Antoni che sarà con voi per le prossime due ore, quindi sino alle 19 circa. Adesso un attimo di pausa, poi sarà un altro flashback, però stavolta musica. Torniamo a parlare soprattutto di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. E allora, indietro sino al 1970, volete scoprire chi è che vinse quell'anno il Festival di Sanremo? Ve lo dico subito. Intanto nel 70 vi dico che a presentarlo furono Nuccio Costa con Enrico Maria Salerno e Ira Fürstenberg. Belle canzoni che hanno che sono salite sul podio di quell'anno. E allora, partendo naturalmente dalla terza posizione, aspetta che la vada a beccare, l'avevo qua presa per farvelo scoprire e adesso mi è sfuggita di mano. Posso dirvi soltanto che allora nel 1970, mamma mia, pensate che a vincere quella edizione fu niente poco di meno che colui che quest'anno ha creato non pochi problemi al festival. Indovinate chi? È proprio lui. Proprio lui, il super molleggiato. E allora, al terzo posto di quell'anno si classificò Sergio Endrigo, che era accompagnato da Riva Zanicchi con l'Arca di Noè. Al secondo posto c'era quella bella canzone, La Prima Cosa Bella, cantata insieme da Nicola Di Bari con I Ricchi e Poveri, mentre Adriano Celentano con la sua attuale moglie Claudia Mori vinse quell'anno il Festival di Sanremo cantando Chi non lavora non fa l'amore. Questo l'ha detto ieri mia moglie. Flashback. Perché Sanremo è Sanremo. Chi non lavora non fa l'amore. Mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai, son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato due giorni su tre. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. Chi non lavora non fa. Mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica, c'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivò lì ma il dottore non c'è e il sciopero anche lui. Che gioco è? Ma come finirà? C'è il caos nella città, tamo va, tamo va. Non so più cosa far, tamo va, tamo va. Se non sciopero mi picchiano, se sciopero mia moglie dice chi non lavora non fa l'amore. Dammi l'aumento, signor padrone. Entra l'amore, così vedrai. Questa è la canzone che vinse l'edizione del 1970, creando adesso non pochi problemi questo personaggio, Adriano Celentano, il re degli ignoranti, il super molleggiato che con quella prima giornata ha fatto commissionare il festival. Tutti parlano contro Celentano, la chiesa, tutti, veramente non si capisce nulla. Invece andiamo a scoprire adesso che aria tira Sanremo. Sanremo 2012, curiosità, voci e note dal 62esimo Festival della Canzone Italiana. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Miriam Mauti, in studio anche per questo appuntamento con il Festival di Sanremo, che ieri sera, e per una volta grazie anche alla buona musica, ha ottenuto un aumento degli ascolti e soprattutto ha regalato qualche genuina emozione. E stasera, visto che i duetti funzionano, si replica. Ma la cronaca di queste ultime ore del festival ci viene direttamente da Sanremo, dal nostro inviato Gerardo De Vivo. Eccoci qui, Gerardo, buon pomeriggio. Ciao Miriam, buon pomeriggio a tutti. Allora, ti è piaciuta anche a te la serata dei duetti con gli stranieri oppure no? È stata una bella serata, sì, ma guarda, il primo motivo di soddisfazione è il fatto che ci sia stata solo musica a Sanremo, per una volta è importante. Poi è stata una bella serata con qualche spunta d'eccellenza, un pizzico di operazione nostalgia con, non so, José Feliciano piuttosto che Aja Rosa, cantanti che non si vedevano da tempo, e sulle punte di eccellenza mi riferivo a Brian May, al di là del pezzo, insomma la sua presenza sul palco era importante, Patti Smith. È stata sicuramente una bella serata di musica e è stato contentissimo anche Morandi. Oggi in conferenza appunto ci ha detto che fra i due motivi che ha per essere contento di questo festival, uno è stato la presenza di Celentano e l'altro la serata di ieri. A proposito di Celentano, si sa ci sarà questa sera, domani sera, ormai il festival sta finendo? Eh sì, il festival sta finendo, pensavamo che ci sarebbe stato stasera perché in mattinata ha provato e invece ci hanno ufficialmente, e speriamo sia vero, che Celentano sarà di nuovo sul palco domani sera. Speriamo che non sia un annuncio come quella della conferenza stampa, che poi è diventata fantasma sempre per quanto riguarda il molleggiato. Stasera quindi non ci sarà Celentano, che si esibirà domani sera nella serata finale, ma questa sera accadranno un bel po' di cose, no? E avremo tantissimi duetti, come accennavamo, quindi sono i 12 big rimasti in gara, duetteranno, quindi Arisa con Mauro e Mano Giovanardi, Bersani e Paolo Rossi, Chiara Civello con Francesca Michielin, la vincitrice di X Factor, Emma con Alessandra Amoroso, una coppia tutta targata amici, Noemi e Gaetano Curreri, ci sarà anche stasera da divertirsi sicuramente. Sabrina Ferilli sarà la presenza femminile, poi per portare un pizzico di risata, ma sicuramente più di un pizzico, sul palco dell'Aristan Alessandro Siani. Perfetto, e con questo annuncio noi ci lasciamo ascoltando peraltro una delle canzoni più apprezzate di questa edizione, mi sembra, la canzone di Eugenio Finardi, che ci porterà fino ad ascoltare l'intervista che hai realizzato con Finardi, che ieri sera, accompagnato da Noa, tra l'altro una regina della world music, ha fatto un'esibizione di tutto rispetto. A risentirci a domani, Gerardo. A risentirci. Lo chiami Dio, io non do mai nomi a cose più grandi di me, perché io non sono come te, ma conosco l'amore. Eugenio Finardi di nuovo a Sanremo, dopo tanti anni e dopo aver detto che non l'avresti più fatto, sei di nuovo qui. Perché? Perché è impossibile dire di no a Morandi. È una legge della fisica, è una legge universale, quindi come la gravità e la forza centrifuga non si può non obbedire. E poi perché no? Per portare visibilità a tutto quello che ho fatto in questi anni, a quello che spero di fare nei prossimi, per portare anche una visione della musica e del modo di farla da indipendente, da sognatori, da musicisti. Che ricordi hai, se li hai, dei tuoi precedenti festival? Il primo ho un pessimo ricordo perché non lo volevo fare, avevo la febbre, ero in playback, sono uscito con i pantaloni aperti davanti, ho dovuto fare una strana giravolta per chiudermeli, mamma mia, un ricordo terribile praticamente. Mi ricordo un Sanremo fatto con la boule dell'acqua calda, con i sulfumigi, le cose. Il secondo è stato divertente, ma col senno di poi, Amami Lara, io avevo in realtà presentato una canzone più seria, più profonda, e mi ero fatto convincere dalla casa discografica a fare il pezzo più radiofonico, eccetera. E oggi forse non ti faresti convincere, dopo tanti anni di carriera, è arrivato alla soglia dei 60 anni, li compi quest'anno, tra l'altro in splendida forma, ti trovo. Sì, in verità sì. Mio padre all'età di 65 anni ha iniziato una nuova vita, ha lasciato l'Italia, è tornato con mia madre in America, mia madre è americana, e ha vissuto fino a 94 anni un'intera nuova stagione della sua vita, per cui mia madre è ancora viva a 93 anni, per cui se tanto mi dà tanto ho ancora 30 anni da lavorare, insomma, quindi è un punto d'inizio, non solo una fine. Tua bellezza furiosa è il nobile, qualcosa che somiglia alla parte migliore di me. E si chiama La tua bellezza, la canzone portata a Sanremo da Francesco Renga, un veterano ormai del festival che ha cominciato a frequentare prima con i Timoria, poi da solista. Eccolo al microfono del nostro inviato. La tua bellezza è una canzone, secondo me, appunto bellissima, ma soprattutto è la canzone che in questo momento rappresenta la sintesi di tutte le esperienze artistiche che ho fatto in questi anni. Mi sembrava così opportuno portarlo, cantarla all'interno, insomma, di una kermesse, di uno spazio che è quello poi più adeguato, no, a presentare una canzone nuova, e quindi sono qua. A me poi diverte Sanremo, non so perché, ma vederlo da casa mi intristisce. Da qui dal vivo ne hai visti tanti, hai attraversato 20 anni di Sanremo, com'è cambiato, se è cambiato il festival? È cambiato che secondo me è migliorato parecchio Sanremo, anche qualitativamente, insomma, sicuramente c'è stata un'evoluzione. Poi quest'anno ci volevano andare tutti, quindi io sono andato in anni in cui era visto come la peste, nessuno ci va, Sanremo no. Quest'anno invece eravamo in tanti, quindi vuol dire che le cose sono andate, insomma, a migliorare, e soprattutto si sia resi conto che ormai gli spazi veramente in cui esercitare la professione del cantante siano veramente ormai ristrettissimi, soprattutto in televisione pochissimi, e quindi è giusto riuscire, insomma, ad occuparli, non come ha fatto Celentano, ma magari in gara. E stasera si conclude anche la gara tra i giovani, ci sarà un vincitore, sono rimasti in lizza in pochi, e tra loro c'è anche Erika Mu con Nella vasca da bagno del tempo, eccola. Il finale è la cosa che mi piace di più di questa canzone, perché io resto da sola senza l'orchestra, solo con la chitarra, e lì veramente posso fare come se stessi facendo un concerto chitarra e voce, insomma, la cosa mi... anche se suonare con l'orchestra è stupendo, però lì, siccome non sono abituata, ho un po' l'ansia di responsabilità nei confronti di tutti questi altri musicisti con cui devo andare a tempo, invece il finale è totalmente libero e quindi mi rilasso lì. Non lo so cosa vorrei mostrare agli altri, però a me stessa vorrei mostrare veramente una serenità che proprio non riesco ad avere nulla nella mia vita, tranne che quando sono sul palco, perciò lì la voglio. E anche per oggi è tutto, vi salutano Miriam Mauti e Tony Caruso alla parte tecnica, buona serata, a risentirci a domani. Sanremo 2012, curiosità, voci e note dal 62esimo Festival della Canzone Italiana. Ma avete visto che belle, tante interviste, sentiamo anche i protagonisti di Sanremo grazie a Miriam Mauti, la nostra redazione, che ci tiene informati su quelle che sono le novità, soprattutto gli umori dalla Città dei Fiori, dal Festival di Sanremo. Ma Celentano arriva o no? Allora, manco stasera, vedremo se poi domani arriverà. Poi immaginatevi se lo mettevano di venerdì 17 a Celentano, non credo proprio. C'è ancora un po' di calo da parte di Sanremo, da parte dello share, naturalmente. Vedremo se poi stasera con questi duetti possa tornare su come nella prima serata, però vuoi o non vuoi, chi è piaciuto, chi non è piaciuto, il Celentano ha portato sugli ascolti di Sanremo. E visto che l'abbiamo sentito, adesso dovremmo aspettare 2 minuti, giusto il tempo di alcuni consigli per gli acquisti, e poi, dicevo, l'abbiamo sentito nell'intervista, ascolteremo quella che è la nuova canzone di Francesco Renga, che si chiama semplicemente La tua bellezza. Naturalmente una vostra segnalazione, perché già cominciate a segnalarcele le canzoni di Sanremo, quindi un attimo di pausa e poi ancora Sanremo, perché in fondo mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza giostra come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni. Naturalmente credo sia uno dei papabili vincitori di questa edizione del Festival di Sanremo. Bella la canzone di Francesco Renga, che un po' non si sentiva, però si stava preparando al Sanremo e soprattutto a sfornare questo grandissimo successo. Una delle cose che più ha fatto parlare di sé di questo Festival di Sanremo, oltre Celentano, è quella domanda che tutti quanti ci siamo posti: ma ce li ha o non ce li ha? Ce li aveva o non ce li aveva? Ah, sto parlando degli slip di Belen Rodriguez. Dai, però ho fatto di tutto per mettere in imbarazzo, cioè, o meglio per incuriosire la gente. Io ero imbarazzato per lei, ma lei era talmente tanto tranquilla, anzi faceva di tutto per aprire quello spacco. Però credo a quell'ora della serata, fascia protetta, vabbè che quest'anno saremo qualche parolina un po' colorita vola, sta volando, però qualche spacco di troppo è arrivato, ma va bene così. Credo che Belen non abbia bisogno di tutto questo per mettersi in mostra, anche perché ormai è saputo e risaputo che è una delle soubrette più apprezzate del piccolo e anche, aggiungerei, anche grande schermo. Va bene, 17.38, buona serata, come va? Ormai siamo un piede dentro il weekend, oggi che è il venerdì, anche se poi ufficialmente dobbiamo dire che in questo periodo ci sono tanti weekend organizzati, no? di carnevale, ormai tanta gente si è organizzata già da qualche weekend fa. andremo avanti sino a martedì con questi festeggiamenti. Ieri è stato il giovedì grasso, avete mangiato tanto, eh? Vi regalo questo nuovo di David Guetta. You shut it out. Adesso sia una delle canzoni più ballate del momento, questa Titanium di David Guetta, bella, bella, bella. È tra le canzoni che sono piaciute al sottoscritto, quindi che mi hanno un po' più impressionato delle altre, a parte quella di Francesco Renga, che per me è probabile vincitore. C'è anche questa qua, di Nina Zille, si chiama Per Sempre. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna alla fine. cosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare. Non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stasera non cedo a niente, perché se perdo in amore perdo te, ti accendi il mondo per un istante e poi va via la luce. E so che è stupido pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato. Avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile mi ha fatto morire, invece di morire ho imparato a respirare per sempre. Dopo L'uomo che amava le donne, nuovo singolo di Nina Zilli, semplicemente, no, semplicemente gli ho messo io per sempre, dal Sanremo 2012. Ben ritrovati, buona serata, 17.45, solo se state seguendo la puntata in diretta. Eventualmente devo salutare tutti gli amici che seguono la puntata in replica la notte da mezzanotte alle 2 circa, quindi se non avete in questo periodo, credo che pochi sono a non aver nulla da fare, perché in questo periodo c'è tanto da fare, siamo sotto carnevale, quindi magari ci siamo già organizzati, vi siete organizzati, allora fatemelo sapere. Dove andrete a passare il vostro carnevale? Quale carri andrete a vedere? Fatemelo sapere tramite un SMS, tramite un messaggio al nostro sito crmpradio.it, dove oltre ad ascoltare potete anche vedere in streaming. I'm not afraid to die. tante cose ci sono in questo periodo. No, stavo vedendo anche questa cosa di Sarkozy, che si è fatto ritoccare a poche ore dall'annuncio ufficiale della sua ricandidatura per la corsa all'Eliseo. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha diffuso le prime immagini dei suoi manifesti elettorali, però non so se le avete viste, non so se sono veri questi qua che metterà in circolazione, perché cioè, di pessimo gusto. Ah, vedremo se sono quelli là. Ma non vorrei parlare prima che non ci sia l'ufficialità, perché qua la riprende la Francia forte con lui in primo piano e il mare sullo sfondo, che sia diventato oggetto di scherno e fotomontaggio solo perché qualcuno lo sta ritoccando. Lui ha messo, cioè lui in primo piano, il mare come sfondo, qualcuno gli ha messo la nave Concordia che è affondata, altre cose, ma beh, naturalmente sarà gente che non sarà con lui. Vedremo, ha fatto una dichiarazione forte parlando del suo avversario, lo farò a pezzettini, ha detto. Va bene, facciamo un attimo di pausa, poi torneremo ancora insieme. Devo accontentare ancora tante segnalazioni. Spero di farcela entro le 19. Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. E allora questa settimana sapete che durante l'appuntamento con il flashback, con il classico, i dischi che ci portano indietro nel tempo, vi stiamo facendo scoprire quali sono state negli anni le canzoni che hanno vinto le varie edizioni del Festival di Sanremo. Quest'oggi abbiamo preso di mira gli anni 70, siamo partiti per l'appunto con il 1970, dove c'era Sergio Endrigo con l'Arca di Noè, La prima cosa bella di Nicola Di Bari, e Chi non lavora non fa l'amore, questo nel 70. Nel 71 al terzo posto c'era Lucio Dalla, 4 marzo 1943, poi I ricchi e poveri che sarà, e Il cuore uno zingaro che vince l'edizione del 71. Nel 72 al terzo posto Il re di denari di Nada, Peppino Gagliardi Come le viole, e Il giorno dell'arcobaleno vinse Nicola Di Bari nel 72. Attenzione, Nicola Di Bari, ho detto, perché poi nel 1973 al terzo posto c'era Da troppo tempo di Milva, Peppino Gagliardi Come un ragazzino, mentre al primo posto, quindi nel 73, la canzone che vinse il Festival di Sanremo fu Un grande amore niente più, questa cantata naturalmente da Peppino Di Capri. Flashback. Perché Sanremo è Sanremo. Io, lontano da te, pescatore, lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia, e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore.

tanto mare. Sai perché mi richiama quella canzone di Loredana Bertè, dai. Gigi D'Alessio, che bella accoppiata assieme a Loredana Bertè, respirare dal Festival di Sanremo, esclusi la prima sera, ripescata la seconda, probabilmente sul podio l'ultima sera. Vedrete, vedrete. E allora noi adesso dobbiamo ospitare la redazione, sentire cosa è accaduto in quest'ultima ora e poi saremo ancora insieme, state lì. Ma avete scelto la radio giusta, CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, questa è On The Road con Roby D'Antoni anche per oggi, insieme sino alle 19, quindi siamo al giro di boa. Quasi fermo, un forestiero, in mezzo ai palmetti verdi c'era un pozzo e una ragazza era, il suo nome era Sara, tu sei un giudeo, gli disse la donna, con quale coraggio mi chiedi da bere, son mille anni e più che i tipi come te non passano di qui, non parlano con noi, ed il primo sei tu, ma perché tu lo fai? A una samaritana i giudei un po' d'acqua non chiesero mai. Tu donna, se conoscessi il forestiero che sta qui davanti a te, gli chiederesti sorso di acqua, allora sarei io che darei da bere a te, io che sono un giudeo. A quel forestiero rispose la donna, ma dove la trovi quest'acqua da bere? Io vedo che non hai la secchia insieme a te, profondo è il pozzo, sai, vuoi dirmi come fai? Lui la donna guardò, sorridendo spiegò, non si trova nel pozzo quest'acqua di vita che io ti darò. E lei, era incredula, e lui, all'orecchio le si avvicinò, le bisbigliò qualcosa e le sbiancò. Mi vuoi dire chi sei? Solamente un profeta conosce i segreti di ognuno di noi. Signore, io so che un giorno il Messia come un povero verrà in mezzo a noi. E quando verrà sta scritto, già sta scritto che ogni cosa ci dirà, perché viene dal cielo. Quel forestiero di tanta bellezza guardò quella donna con molta dolcezza e disse: sono io colui che dici tu, se l'acqua mia berrai mai più tu morirai. E la prima fu lei a sapere di lui, che quell'uomo del pozzo era il figlio di Dio chiamato Gesù. Questa è una vecchia canzone di Adriano Celentano, tra l'altro l'ha presentato quando lui è arrivato a Sanremo nella prima serata, e adesso mi è stata richiesta da Mauro da Giace, che volevo salutare, l'amico Mauro Furnaro, il nostro caro amico Mauro, che voleva fra l'altro dedicarla a Don Pino di San Mauro. Scusate tutto sto gioco di parole, spero di non aver fatto un po' di confusione, comunque Mauro avrà capito sicuramente, anche Don Pino credo che abbia capito che la canzone l'ha dedicata a lui, e quindi era il Forest. Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe

Mossa. Ai, se eu te pego, que delícia, delícia, assim você me mata. Sai che mi aspettavo anche Michel Teló a Sanremo come personaggio del momento. Credevo che probabilmente la produzione del festival avrebbe voluto invitarlo, avrebbe ospitato questo grande artista. E allora ieri serata di duetti, a proposito sempre di Sanremo, al festival di Sanremo, 14 artisti, i 14 artisti hanno duettato con i colleghi stranieri. C'è stata la standing ovation per il chitarrista dei Queen, Brian May, Irene Fornaciari che si è messa a piangere, Patti Smith strepitoso con Marlene Kunz che è risultato il miglior duetto. C'è stato anche qualche stecca effettivamente. Bertè emozionata che ha cantato la canzone della sorella, Mia Martina, Almeno tu nell'universo. C'è stato questo spacco sexy per Ivana Mazrova, ma non crea scalpore quello di Belen sicuramente. Lei non voleva essere da meno, però credo ci sia qualche centimetro in meno nello spacco di Ivana. Poi c'è stata la Pellegrini, è stata una timida ospite, niente, ha confermato che non porterà la bandiera, niente da fare. Eliminati Marlene Kunz e Fornaciari, silenzio da Celentano. Diciamo che probabilmente, dico probabilmente, riapparirà sabato nell'ultima serata, vedremo se sarà così. 18:24, buona serata sulla radio che si sente e si vede. Adesso voglio regalarvi questa bella canzone della Nannini. Io vivrò con te, ogni giorno comincia dove i baci finiscono. Ora che è inevitabile un dolore fantastico, e i minuti che restano per sempre. Ti voglio tanto bene e ci sarò per te, se sentirai nel cuore un amore che non c'è. Ti voglio tanto bene e ti raggiungerò con tutta la mia voce. Ascoltami, io canterò per te. Mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. E nel sole rinascere. Io lo so che siamo fragili e con gli occhi degli angeli ci guardiamo resistere. Io vedo un mondo migliore, si girano le nuvole a picura di splendere. Ti voglio tanto e niente finirà, se non avrai paura di continuare a vivere. Io canterò per te, mi sentirai nell'aria, entrare nei tuoi occhi, sola nell'anima. Io di luce a noi, ora dov'è? Ah, che bella sta canzone della Nannini. Anche lei mi aspettavo a Sanremo come super ospite, niente da fare, niente, c'è stata la super Pellegrini come ospite, questa campionessa del nuoto Federica Pellegrini, fasciata con un abito lungo bianco, castigato, però è stata la super ospite della serata, emozionata e timida, però ha ballato il lento con Gianni Morandi, io lo sto leggendo perché ieri non l'ho, ho avuto modo di vederlo ieri, no, non l'ho visto a Sanremo, devo essere sincero, però mi sto documentando di quello che è successo ieri. Non potrò vederlo manco stasera, manco domani, poi mi racconterete voi. Ci sono gli impegni di lavoro, non posso. Vedremo. Poi racconteremo, anzi ne parleremo lunedì, di quello che è successo in questo Festival di Sanremo targato 1000, magari a tornare indietro. Una ventina d'anni, sarebbe bellissimo! Se mi dai la magia del carnaval, felicità, il mio samba mi fa cantare. Felicità, la magia del carnaval. Samba me faz cantar. dobbiamo fare un attimo di pausa, ma poi vi farò sentire ancora una canzone dal passato, un'altra canzone che ha vinto una delle tante edizioni del Festival di Sanremo. Andremo indietro sino al lontano, vediamo un po', 1900, così a occhio, 1977, ma sì dai, fino al 77 vi farò scoprire che quelle sono le tre canzoni che sono salite sul podio di quell'anno. Intanto ci fermiamo un attimino, ma proprio due minuti, poi sarà ancora on the road all'interno di questo programma. State scoprendo quali sono state le canzoni che negli anni hanno vinto le varie edizioni del Festival Sanremo. Ormai ci siamo alle battute finali, perché oggi e domani poi si chiude questa 63esima credo edizione del Festival di Sanremo. E allora attenzione, perché vi voglio dire che nel 1000, visto che stiamo affrontando gli anni 70 oggi, vi dico che nel 70 ha vinto Celentano con Chi non lavora non fa l'amore, poi nel 71 Il cuore non zingaro di Nada e Nicola Di Bari. Nicola Di Bari che si è ripetuto nel 72 Giorni dell'arcobaleno, Peppino Di Capri nel 73 Un grande amore niente più, Ciao cara come stai di Iva Zanicchi nel 74. Queste sono le canzoni che hanno vinto le varie edizioni del festival negli anni 70. Gilda nel 75, Ragazza del Sud, Peppino Di Capri ancora nel 76 con Non lo faccio più. Mentre nel 1977 al terzo posto si classificò la canzone Monica dei Santo California, quella dei Collage al secondo posto, Tu mi rubi l'anima, che bella che era sta canzone. Mentre al primo posto, quindi la canzone che vinse l'edizione del 1977, fu questa bellissima Bella da morire degli Homo Sapiens. Flashback. Perché Sanremo è Sanremo. Nel fil d'amore vince sempre il bene, e chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine. Adesso la folla tra i colombi che ci osserva, il freddo ai nostri aliti, la nebbia, piangere domenica mattina qui per me, che sei bella. Down. mamma mia, 35 anni, sono passati esattamente 35 anni, ma ti rendi conto da quando vinse questa canzone degli Homo Sapiens? Bella da morire! Attenzione, da una vecchia canzone di un vecchio Sanremo a un Sanremo nuovo, quello del 2012, lei si chiama Celeste Gaia, Carlo! Di grigio c'era l'acqua sulla strada e l'angolo di pane profumava, quel rosso un po' sbavato mi guardava, cosa cercava? L'anello io lo guardo, mi sta stretto, se capita lo lancio giù dal tetto, mi stringo le parole dette in bocca, la nostra storia. Che va al sesto piano, Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo, ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi verdi, mi sanno di calma, interiore, equilibrio, sempre associati all'amore. Secondo, ma ci penso, se scendo prima è chiaro che lo perdo, e fermo questa macchina infernale, così non vale. Dal quarto poi cadiamo al primo piano, ritrovo questo sguardo più vicino, è bello più di quanto mi aspettavo, è così strano. Fosse vero, ma le porte si aprono, ricordo di essere in Francia. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo, ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Verdi, verdi, mi piacciono gli occhi verdi, mi sanno di calma, interiore, equilibrio, due sempre associati all'amore. Carlo, Carlo, vorrei ti chiamassi Carlo, ho sempre pensato che fosse un bel nome, ma adesso io cambio opinione. Quanto è brava sta ragazza! Celeste Gaia, Carlo, la sua canzone all'interno di On The Road, anche per oggi, ultimo appuntamento della settimana, in questo venerdì 17, avete fatto gli scongiuri? Ma sì, dai! Due cose negative ne fanno una positiva! Me, I just melt away. bella questa canzone di Beyoncé, anche se ormai è troppo. Sai quando spremi una canzone troppo? Che ne pensi tu, Rambo? Secondo te? Intanto buonasera a tutti. Intanto buonasera a tutti, giusto? Come va? Sì, Roberto, tutto a posto. Però ti sento un po' giù, che è successo, Rambo? No, mi sono bevuto un pochettino d'acqua a posto. Acqua? E mi sono fatto un panino poco fa. Ah. Mi sento bene. Un panino poco fa, scusa, un panino alle. Alle 6 alle 18:30 ti fai un panino, ma poi devi cenare o no? Questa vale come sì, cena? Devo cenare, se no, leggero, senza pasta. È di senza pasta, ma già ti sei fatto un panino, potrebbe anche vabbè, bastare. Oggi niente ho mangiato, oggi ho mangiato un panino pure. Ah sì? Vai avanti. Sono l'una e un quarto. Ai ai ai ai. Un quarto, due e mezzo, sono mangiato una cosa veloce. Mamma. Mi è andato a lavorare. Che vita che fai, Rambo, che vita. Alle 4:30 sono sceso a campo. E poi c'era la partita di amichevole, così continuavo con tutto. Ho capito, cioè avevate questa partita amichevole. È fermo il campionato per ora di prima categoria. Giorno 25. Parliamo di campionato di prima categoria, naturalmente. Sì, girone C. Girone C è fermo, per ora magari la gente dice: ma che dicono? Il campionato di calcio di Serie A. Possono partire, ci sono le partite belle calde, Roberto. Sì, al rientro ci sono le partite calde. Cioè, loro portano il giorno 25 giocano in Sant'Aga. E tu vieni qua a vedere. Poi c'è quello mi pare che va. Aspetta, te lo dico subito. Ma ce l'hai davanti il calendario. Aspetta, un video, cioè da buon. Cioè, vabbè, lascia perdere, poi ne parliamo. Ne parliamo poi, Rambo, non ti preoccupare. Ma dimmi una cosa, ma Sanremo l'hai visto? Non mi sta niente di dire, Roberto, sono stato appena di dire e poi mi accucchi. Madonna, ma come fai a non vedere una puntata di Sanremo? Non neanche a ballare sono andato. Ma io dico, una serata che io mi perdo Sanremo. Era troppo freddo, Roberto. Allora, mi chiedono, fai venire Rambo allo studio così lo conosciamo. Sì, qualche giorno dicilo. Prossima settimana, vieni. Tra lunedì e martedì vengherò, tutto per voi. So. Vengherò? Sì. Che verbo è? Io vengherò. Roberto, scusa un attimo. Questa mattina c'è quello che dopo giocherà a capolla, gioca sempre di sabato. Prossima ancora, quindi c'è il rientro. Sì, partita dura. Sì, vabbè. Se gioca, diciamo, il terreno non è a terra, di terra. Sì, è quello sintetico. Sì, con il tappeto. Bello, decidi la media. Vabbè, senti, ci sono delle pupette che mi hanno chiesto di te. E poi la battaglia, Rambo, saluto Santo Stefano. Rambo, mi sono arrivati dei messaggi da parte di alcune pupe che mi hanno detto, quando lo ospiti in studio, ma lui già era venuto in studio, però... quel periodo non è. Sì, lo mangiare ci devo mangiare, ero che cosa è stato per il mio compleanno. Sì, ma mi dava qualche rullo questo caro ogni tanto. Va bene, tu porta gli ingredienti che poi ci penso io. Posso dire? Lo sai a me cosa piace, no? Il salame dei nebri. Apro la cosa, putti. Cosa sei, Rambo? Cosa sei? Dobbiamo andare qualcuno. Certo, facciamo. Sì, facciamo qua un banchetto. Se potevo fare io e te. No, tetta a tetta, facciamo tetta a tetta. Adesso sono arrivato a Angelo, solo non ci siamo. Certo, verrà anche il nostro editore, Angelo verrà, non ti preoccupare. E cosa ne pensi di farmi il vento su questa partita, Roberto? Non me ne parlare, che nervoso, mamma mi sono fatto un... ero nervosissimo io, sai? C'era il rigore, io non ho visto partita. Allora, i rigori, ti dico la verità, il rigore, quello su Pirlo un po' meno, ma quello su Giaccherini era nettissimo. Poi l'arbitro non c'era. Conte è un momento che l'ha discorso in vuoto. Secondo me Conte ha ragione di lamentarsi, perché una squadra che è prima in classifica, era prima in classifica, tanto abbiamo sempre una partita da recuperare, siamo due punti sotto per una partita, un punto sotto, però una partita da recuperare la Juve ha. Dico, in 22 partite, 23 partite, la Juve ha avuto soltanto un calcio di rigore, a favore. E l'Inter quanto? Vabbè, non parliamo dell'Inter, però, anche il Milan ne ha avuti tantissimi rispetto alla Juve. Mia, delle case. Infatti. E quello di mercoledì c'era... Roberto, quando c'è Stefano, dando Stefano che facevi? Una fatta? che facciamo? Tu vieni qua, la vieni a vedere qua. Io faccio le sarde. A tante campionato volo in te, ma ormai sono rimasti uno, due, tre, sei, ne ho otto partite, sono finito quattro in casa e quattro fuori. Otto partite finisce il campionato? Sì, quattro partite in casa, categoria. A me c'è voluto tutte le squadre più, diciamo, quelle più abbordabili. No, Longi, vabbè, Longi, e poi c'è Futura. Va. Poi c'è Futura Brolo. Sì, Futura del Brolo. Senti, poi Rambo, sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia con la pubblicità, Rambo. Devo mandarmi, devi mandarmi la pubblicità. Vabbè, vai in pubblicità. E poi? Poi ritorni, facciamo il finale insieme. Sì, devi chiamare, non occupare. Ci facciamo il finale insieme. Io sempre pensiero, sai, questi. Faremo il finale insieme. Scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata. Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa. Sono le tue carte, il tuo profumo ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu. Scarpe ancora qua, ma tu non sei passata. Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata, proprio lì dove ti ho incontrata. Non ci sei più. Domenica, canta, canta, che ti passa, Rambo? Possiamo andare a fare, vero? Facciamo due ore. Facciamo Rambo e Robby e Rambo. Facciamo due ore. E io penso che ultimi non dovremmo arrivare, per la quantomeno saremo premiati per la simpatia. All'ultimo non ci credo. No, no, no, io non ci credo che dovremmo. Io eravamo l'ultimo in galera, spaccato. Va bene, Rambo, devo chiudere. Allora, la musica vuoi. Poi te la metto, sai che scaletta ce l'hai, la l'ultima tua. La rotta mette sempre canzone. L'ultima, sempre l'ultima, la tua. Senti, noi ci risentiamo lunedì per commentare il weekend sportivo. Aspetta, domani c'è partita, Robe. Domani la Juve gioca. Domani c'è Juve, Catania? Sì, sì. Non mi dimo dove, certo. Ai. Potremmo fare sempre le pasta che esatto. Diventa poi. Ma la basta, 0-0 finito, allora ce n'è per tutto il sportivo. Vediamo, è da tanto, la Juve deve segnare perché ormai non segna più. Conte dovrebbe un attimino cambiare qualcosina perché mi sa che sta perdendo un po' la testa. Conte, no? Non riesce più. Deve stare un pochettino calmo. Va bene. La maggior parte ce l'hanno corta l'abito. Vabbè, però la Juve non si deve attaccare a queste cose, Rambo, tu lo sai, la Juve deve fare gol e vincere come faceva in avvio di campionato. Vabbè, questo sì. Certo, adesso gioca un po' la stanchezza perché tutte queste partite, una dietro l'altra, effettivamente. Uno non è avanti, ma di solito subito. Bene. Che dato, non è che ha dato mille lire. Entrano i milioni, milioncini, milioncini. Ma devi dormire mille euro, mi sa, posso gli uomini giù. Rambo! E allora sì. Ci sentiamo lunedì? Vabbè, saluto a tutti, buona serata a tutti, mi raccomando, fate bravo. E un buon weekend a tutti, naturalmente. Buon weekend a tutti, venerdì, sabato e domenica, passate. Buon carnevale, Rambo! No, gli adesso, Ciao!